Thank you. チブチブラダチブチブダディルダオーミンちゃんビアビアビエディビアコンミエンタイケトアモレボヨノンペンダティデニエンテルモンドビエビエNon perditi per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorati di te. Oh, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, cheap, cheap, da di do di do da da.Chibu chibu chibu da di do di do tap di bi do pa da. Viens viens, viens et viens Tiki. Ok, come on, yes you are.Che ci fiori azzurri, via via, non c'è che il tuo tempo di oggi, pieno di musicce e di omicidi con piaciuti. Oh, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, I dream of you. Viens, viens, viens et viens avec qui. Nesce questo tempo Giorgi pieno di modice e di omicetti con piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, daddy do di do da di. Chibu chibu chibu da di do di. Chibu chibu chibu da. Morte di te. Oh, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Ships, ships, daddy do di do, chibu chibu boom, daddy do di do, chibu chibu boom, daddy do di do, oh chibu. Thank you. Vieni, vieni con me. Entra in questo amore bio, pieno il duo io mini. Vieni.